Buongiorno Willy, buongiorno amiche e amici del Move to Groove. 29 gennaio 83, Detroit Pistons 128, Chicago Bulls 126. Partita ricca di false note anche ai nostri campionati come Corzin, Tius, Holberding, Woodridge. Ma il mattatore della serata è Kelly Tripucca. 56 punti con 18 su 22 dal campo, 20 su 22 liberi, 6 rimbalzi e 4 assist. Tanto per capire quanto talento c'era in ali piccole negli anni 80. Buongiorno a tutti. E quanto talento vedo al Move to Groove. Buongiorno amiche, amici sportivi e non sportivi. 8 e 10 minuti, iniziamo. Grazie per questa bellissima Paola 2 a Paolo Onofri. Ci siamo già salutati, ma risaluto affettuosamente Pietro Rossi. Buongiorno Pietro. Buongiorno Willy, buongiorno a tutte e tutti. Allora, intanto a proposito di saluti, citiamo il grande Kelly Tripucca, numero 7 dei Detroit Pistons, un realizzatore, un attaccante, punti nelle mani, capacità di gioco da terminale infallibile, 18 su 22 dal campo, è una media inquietante, inquietante, mi viene da portare questo aggettivo per descrivere l'ala piccola, il 3 dei Detroit Pistons, che veramente ritengo uno dei più forti attaccanti dell'epoca. È un saluto, allora il saluto è, diciamo che per me è un fondamentale, perché il saluto rivela tanti aspetti di noi, tante cose che magari sono sottese, esplicite o meno. Il saluto, il toccarsi, diffido molto due cose: chi non saluta, chi dice che io quando parlo non sopporto chi tocca, chi come. Per me è fondamentale, perché è il primo scambio fisico che si può avere ed è un gesto di fratellanza, è un gesto di condivisione, è un gesto di fiducia. Ho scelto la pallacanestro, ovviamente, perché da ragazzino con questa statura è venuto abbastanza immediato, ma il piacere, non nascondo il piacere anche di avere una competizione con contatto fisico, a volte anche con dei lividi, quando andava bene con dei lividi, ma avere il contatto fisico è una conoscenza in conversazione silenziosa che rivela tantissimo di noi. Qual è il punto fondamentale per il contatto, uno dei cinque sensi, no? Il polpastrello, no? La mano, polpastrello, la mano, la sensibilità. Quando ti salutano, Pietro, e ti danno la mano e trovi quella manina che sembra un po' da oca morta, non è che sia bellissimo. Beh, no? Non entusiasma, no? Non entusiasma, ecco. Mentre la stretta di mano, fino quasi a sentire un leggero dolore, oh, finalmente, questa è una stretta di mano che dà più sicurezza, che invoglia la conversazione. Allora partiamo dalle mani, per dare questa settorialità nelle parti fisiche che dicono tantissimo di noi, non solo nella pallacanestro ma anche nella vita di tutti i giorni, perché come ben sapete il Move to Groove è un parallelismo continuo. Allora, per quanto riguarda le mani, io ho portato come primo esempio The Doctor, Julius Serving, 2 metri, forse qualcosina in meno, ma con queste mani enormi che sono state anche un pochettino un limite per la sensibilità. Si dice che Julius Irving non fosse un grandissimo tiratore dalla distanza, perché avete mai provato a tirare con una palla da pallavolo a canestro? No, il tiro difficilmente andrà a bersaglio, sarà qualcosa di impreciso proprio per l'aspetto di misura sproporzionata delle mani. E Julius Irving, se avete opportunità di vedere qualche immagine, sembra che abbia un'arancia nelle mani invece che la palla da basket. Abbiamo anche tanti esempi per quanto riguardano i giorni nostri, Pietro? Esatto, allora, interessante nel basket, appunto, cosa ti permette avere una mano di una certa dimensione. Gli statunitensi, che hanno tanti difetti ma hanno dei pregi a livello statistico, hanno misurato la average hand size, ossia la dimensione media, esatto, delle mani dei giocatori NBA, che si aggirano fra le 9 inches di lunghezza e le 10 e mezzo di larghezza, che tradotto in centimetri è un qualcosa tipo una mano da 22 centimetri sì. per 26, un qualcosa sì. del genere. Per dire, Dr. J si aggirava tra i 24 e i 28. Quindi una bella mano. Un'enorme mano anche per i canoni NBA. E i vantaggi che ti dà una mano grande è, ti permette di schiacciare una mano più facilmente. Possesso, difesa, certo. rubate, il controllo e quant'altro. E in NBA c'è proprio una sorta di, come dire, di status symbol quando hai le mani grosse, e che è partito proprio con Dr. J, leggevo, che poi si è passato a MJ. Loro lo chiamano palming, ossia il tenere la palla in mano con una mano. Con una mano appunto. Sola, ah che bello. Esatto. Tanto che Phil Jackson, quindi può piacere o non piacere, ma non necessariamente l'ultimo arrivato, ha detto: se dovessi scegliere tra Jordan e Bryant, Kobe Bryant, io sceglierei Jordan semplicemente per le mani più grosse. Perché ha le mani più grandi, esattamente. Riporto anche un altro, Connie Hawkins, con questa mano dominante per poter smistare la palla. Con una mano tieni il pallone, con l'altra allontani la difesa, la possibilità di avere the forge hand, cioè il forcone nelle mani. Esatto. Basta sfiorare la palla con un'unghia che è già tua, perché hai questi tentacoli nelle dita che ti danno come ventose la possibilità di prendere, di avere possesso sulle palle vaganti. E Julius Irving in tutto ciò direi che indubbiamente ne era un esempio, che oltretutto ha dato una grandissima spettacolarità per quelle che erano le sue atletiche acrobatiche, ma sempre concrete conclusioni. Abbiamo delle mani enormi, le mani servono anche per salutare, servono per abbracciare, servono per sentire, servono per dare un primo contatto fisico nella conversazione silenziosa che abbiamo con le persone, e per questo è un aspetto fondamentale, e non solo cestisticamente parlando. Direi che è un buon inizio, Pietro, con assolutamente. Un saluto. Però abbiamo anche delle mani piccolissime. Arriviamo anche a quelle. Arriviamo anche alle mani piccolissime. Mani grandi del Doc non lo favorivano al tiro, ma nel compenso gli permettevano di fare delle giocate spettacolari a canestro, in quanto la palla era imprigionata dentro la mano e ha permesso di fare forse le prime due o tre schiacciate per bellezza dell'intera storia del basket. Quelli che toccano sempre mentre parlano, ma ce ne fossero, è un primo motivo di conversazione, di trasmissione, di comunicazione. Io ad esempio, a me involontariamente mi rendo conto che quando parlo con qualcuno e sta dicendo qualcosa che io approvo, oltre ad avere un motivo di affermazione, tocco o prendo il polso o l'avambraccio, dico sì, hai ragione, mi viene spontaneo affermare questo, come per dire sì, sei con me, sì. Beh, il contatto è espressione di vicinanza. diamo il buongiorno a Lino, che lui aspetta sempre il Mutu Groove. Un buongiorno Lino, grazie, ribadisco il 333-1809494. So che siete comunicativi, vi invito ulteriormente a toccare in questo caso i tasti del Mutu Groove, che sono partiti con il tatto, ma non solo, avremo delle peculiarità fisiche ulteriori. Tutto questo per dare introduzione poi a una puntata di cui ha avuto idea Paolo Zanardi, che aspettiamo, Zanna, nei nostri studi, e sta facendo una selezione di grandi fondoschiena, quella merita una particolarità a sé probabilmente, e quindi noi iniziamo certamente non con body shaming, anzi tutt'altro, è tutt'altro. E parallelismi con la nostra quotidianità. Mani piccole, un omone, Moses Malone, 2,08 metri, un uomo gigantesco, anche corpulento, che fa? Ha le mani piccolissime. E questo purtroppo invece Irma, lei è molto contenta di abbracciare chi sta facendo conduzione, mi ha già dato due baci sulle mani, è arrivata, ciao Irma, come stai? Tutto bene? Ti vedo bella vispa e vivace per quest'oggi. Grande scatto e cambio di velocità per la nostra Irma, corre sui blocchi bene, un contropiedista alla James Worth, ben lanciata, è qualcosa di inarrestabile. Comunque la caratteristica vede mani grandi ma anche mani piccolissime. Moses Malone, il più grande rimbalzista offensivo di tutti i tempi, limitato purtroppo dalle mani piccole. E se voi vedete un'immagine, spesso è accaduto, visto che erano i due giocatori più rappresentativi per i Philadelphia 76ers, li ho messi come copertina per questa puntata, allora c'è Julius Irving, 1,98, che ha queste mani che avvolgono la palla, e Moses Malone, 2,08 metri, che ha delle mani molto più ridotte. Giocatore molto particolare Moses Malone, un rimbalzista eccezionale, la sua capacità e la sua particolarità era il senso di posizione e l'intuizione. Lui sapeva già dove sarebbe caduta la palla appena l'avversario o il compagno di squadra scoccava al tiro. Lui, appena la palla usciva dalle mani dell'esecutore, sapeva già, in caso di tiro sbagliato, dove sarebbe andata a parare la palla, e lui costantemente aveva posizione per riuscire a recuperare il rimbalzo. Il grande Moses Malone, io aggiungerei due parole su questo atleta. Tra l'altro Moses Malone, andando a studiare, a fare i compiti, lo sapevi è figlio di un uomo di 1,70 m e di una donna di 1,55 m? E vedi un ed po'. È venuto fuori un uomo di 2,10 m. E vedi un Stupendo. Po', no, non vogliamo pensare male, ci mancherebbe. Guarda, lo hanno già fatto gli americani leggendo quella. Lo immagino, ma noi non vogliamo aggiungere malizia, perché Moses Malone certamente non la merita innanzitutto. Diceva Rick Perry, suo compagno di squadra, Hall of Famer, quindi no, anche lui non l'ultimo degli arrivati, quanto Malone fosse talmente forte che se avesse avuto delle mani proporzionate al suo corpo, capito? La Lega avrebbe dovuto intervenire contro di lui, perché era veramente troppo. Sì, è un giocatore eccezionale dal senso della posizione. Io non sono esattamente un tifosissimo di Moses Malone, ma ribadisco, epoca dove c'entra molto anche il gusto personale, quindi ammetto, è un talento incredibile, un realizzatore anche con tutti questi rimbalzi offensivi, la capacità di prendere fallo o di trasformare a canestro, duelli con Kareem Abdul-Jabbar a inizio anni 80 incredibili, ma delle mani piccolissime. E tutto ciò è stato forse uno dei pochi limiti di Big Mo, e questo ci porta a uno stacco musicale con una mano fredda, con Fresh dei Kool & The Gang. Mano piccola, ma il resto del corpo era gigantesco, soprattutto il posteriore, quindi quando andava a rimbalzo faceva letteralmente il vuoto, cioè ti spingeva fuori dall'area dei 3 secondi, e il rimbalzo per lui era che la palla gli cadeva tra le braccia, non c'era neanche bisogno di andare a fare qualche salto per andare a prendere, perché creava talmente tanto spazio che la palla gli cadeva letteralmente in mano, perché c'era solo lui dopo in mezzo all'aria. Ne approfitto, so che alcuni allenatori stanno ascoltando il Move to Groove, se allenate per i ragazzini, esercizio per il rimbalzo difensivo, ricordate che il tagliafuori non è verso la palla ma è sempre verso l'uomo, io consiglio questo esercizio, voi tirate, mettete le formazioni in campo e il rimbalzo vale solo se la palla prima tocca terra, perché questo è un esercizio fondamentale per andare a rimbalzo. Non cercate la palla, visto? E qui torniamo al contatto con la mano per sentire dov'è e per portare l'avversario dietro la nostra schiena. Per averne sicurezza, imponete che la palla e il possesso vale solo se prima la palla tocca terra, poi si può giocare. Breve il primo stacco pubblicitario. Vi sono anche esempi nel contemporaneo per quanto riguarda mani piccole, anche se hai portato Kobe Bryant. Ma allora, secondo me, e questo è un commento personale, negli ultimi anni in NBA si cerca questi corpi molto estremizzati. Certo. Nel senso, nell'altro, ne è un esempio Wemba Manyah, che è questo giovane di 2,30 metri, sicuramente talentuosissimo, ma con un corpo appunto molto estremo. Ci sono degli esempi di giocatori nella storia con delle mani che poi anche lì non è che siano così piccole, no, sono delle mani normali. No, normali, esatto. Kobe Bryant non aveva delle mani enormi, infatti Kobe Bryant schiacciava nella seconda parte della carriera, che è la parte in cui diciamo l'atletismo l'ha abbandonato, schiacciava quasi sempre a due mani. Per sicurezza, esatto. Perché non scappasse la palla. Un esempio particolare è Ben Wallace, non so se sei presente. Ben Wallace era un difensore, un centro Detroit? Esatto. Ah, me lo ricordo. Molto difensivo, molto scarso in attacco della serie, non sapeva stare in campo, ma talmente bravo in difesa da riuscire a ritagliarsi nella nicchia di quegli anni un discreto spazio, perché poi ha vinto 4 volte il difensore dell'anno, ma con delle mani molto piccole. Anche questa molto molto piccole, anche lui ottimo rimbalzista, quindi boh, sai che le mani piccole sai portano poi bene, mai che se c'è una sensibilità e una forza. Esatto. E poi io prima della pubblicità volevo citare questo atleta che a me piace a dei livelli, non so se lo ricordo, giocava negli Atlanta Hawks, Kevin Willis. Ah sì, vabbè. 2,13, velocissimo, voi pensate un 2,13 enorme, cioè praticamente vi arriva incontro una locomotiva, sì, velocissimo, un contropiedista, un giocatore potente, un giocatore con un movimento ma infallibile, cioè il semigancio, già averne adesso atleti che possano fare un semigancio, però ecco questa particolarità, lui era chiamato Kangaroo, perché? Perché aveva le braccia, cioè aveva le braccia cortissime. Tu pensa anche questo aspetto, le braccia sono fondamentali nella pallacanestro, eh? Tanti atleti, ne cito uno, tra l'altro un nostro caro amico, Nino Pellacani, ha giocato tantissimo sfruttando e stoppando con queste braccia lunghissime. Ecco, voi guardate un'immagine di Kevin Willis, c'è una sproporzione con questi arti superiori veramente corti rispetto a lui, ovviamente, che è 2,13. Esatto. Però giocatore fortissimo. Nella preparazione di questa puntata leggevo su Kevin Willis che, come dire, non è necessariamente della mia generazione cestistica, fra i soprannomi ho trovato non solo canguro ma anche T-Rex. T-Rex! Sempre per le braccia corte. Per le braccia corte e questa fisicità mastodontica, ma una velocità, una capacità di realizzazione. Concludo prima della pubblicità con un aspetto di Kevin Willis, è uno dei giocatori che ha avuto la carriera più estesa, ha giocato oltre 22 anni nell'NBA, è il quarto in assoluto. Si è ritirato a 44 anni. Ah, che, mamma, cioè, mia, mamma, come dire. Ma chi gliel'ha fatto? Esatto. È riuscito a vincere anche un titolo in questi 20 anni di NBA. E dove era? Houston quando ha vinto? Ha vinto un titolo l'anno dopo a San Antonio. A San Antonio. Ok, sicuramente da backup center, ma insomma, direi giocandosi le sue 80 partite di esperienza. Esatto. Un giocatore, esatto, di esperienza. A tra poco. Yes, I did. Love me. You are my shining star, my guiding light, my love fantasy. There's not a minute, hour, day or night that I don't love you. You're at the top of my list, cause I'm always thinking of you. I still remember in the days when I was scared to touch you, how I spent my day dreaming, planning how to say I love you. You must have known that I had feelings deep enough to swim in. That's when you opened up your heart and you told me to come in. Oh my love, a thousand kisses from you is never too much. È una puntata favola di Cappuccetto Rosso che vede una nonna cestista, nonna ma che mani grandi ha, ma per rubare palla meglio e difendere su stoppata nel migliore dei modi. Ma che braccia lunghe che hai, beh certo, e per riuscire ad accalappiare più ribassi offensivi possibili. Ma tornando alla vita e al nostro quotidiano, magari è per abbracciarvi meglio. E con un grande abbraccio che il Mood Groove arriva anche a questa seconda parte. È un contributo importante il contrappunto di Paolo Onofri, che dà conclusione alla scheda di Kevin Willis, giocatore straordinario. La cosa che mi ha sempre impressionato di Kevin Willis, a parte che era un fenomeno, perché negli anni d'oro per me era tra le prime 10 alle grandi NBA, è la costanza di rendimento. Questo non ha mai perso un colpo dal primo all'ultimo anno di carriera, veramente un giocatore eterno. Adam Filippi lo criticava, diceva: il giocatore che ha difesa schierata ha un movimento solo, in effetti al semigancio, però la metteva. Finché funziona. Che funziona. Andiamo anche agli opposti, eh. È il momento dei piedi, perché i piedi sono il nostro contatto con la terra, i piedi sono delicatissimi, io ne so qualcosa, sto soffrendo infatti anni e anni di parquet e quindi il metatarso va a un schiacciamento che provoca un fastidio, a volte anche l'aumento di peso, in tutto ciò influisce in questi momenti di disagio per i piedi. Piedi grandissimi sono utilissimi nella pallacanestro, perché per prendere posizione in maniera assolutamente ben piantata, e noi ne abbiamo un esempio per quanto riguarda la nostra selezione di atleti con Bob Lanier, giocatore recentemente scomparso, adesso aveva il numero americano 22, considerate che io ho il 48 o il 13 e voi direte: caspita William, hai il 48, sì, ma sono alto 2,5 metri, non ho un piede grande. È vero, non ho un piede grande, assolutamente è un piede proporzionato per una persona di statura 2,05. Per Bob Lanier 2,08, il 62 è già diverso, hai capito? Ci sono delle immagini dei piedi di Bob Lanier che sono inquietanti, però fondamentali, per quanto riguarda prendere posizione. Vallo a spostare Bob Lanier con dei piedi così. Abbiamo degli esempi, immagino, anche nel contemporaneo, per quanto riguarda, come si dice a Bologna, ha delle gran fette. Esatto. Vabbè, Shaquille O'Neal aveva il 22 anche lui, quindi. Ah beh, però 2,18. Più grosso, sì. Interessante, Paul George è una guardia / alla piccola molto forte, molto elegante, un giocatore sexy, potremmo definire, che però di piede è un 47. Quindi relativamente normale, cioè considerato un uomo di 2,03 metri, 2,04 metri. Non è un piedone. No, assolutamente. Non è assolutamente un piedone. Anzi, i giocatori che io ho conosciuto con il piede, diciamo così, normale, permettetemi questa brutta parola, in effetti c'era un po' di problemi sia di equilibrio che nella tenuta della posizione, piede piccolo nella pallacanestro non è mai una cosa, poi il piede grande, ve ne dico un'altra, soprattutto se affusolato, è un trampolino incredibile per il salto in corsa. Sì, è un trampolino naturale incredibile. Quindi non prendiamo in giro chi ha i fettoni. No, anzi, soprattutto no. Nel basket. No, ma le trovi le scarpe. Ma guarda che tu muori in piedi, eh. Se vai a sciare non ti servono gli sci, ma ti danno direttamente le scarpe quando vai a comprare, quando vai a prendere le scarpe. Beh, ma dove le trovi altre? Ma le fanno ma per le te. Ma le fanno per te. So, ma il piede più grande della storia dell'NBA l'ha avuto Will Perdue, che era un 63 e mezzo tendente al 64. Dal vivo il piede più impressionante che vidi fu quello del pivot Katsenko, che riuscì a vedere clamorosamente davanti a Paladozza anni fa. Io non so che numero avesse avuto, ma aveva letteralmente due valigie di cartone al posto delle scarpe, una cosa incredibile. Ah, ma lui è 2,20 anche, se vogliamo poi darne una descrizione completa per quanto riguarda la fisicità di Katsenko, un gigante enorme, uno atleta dell'Armata Rossa che ha portato importanti titoli non solamente all'Armata Rossa stessa, ma anche all'Unione Sovietica degli anni d'oro. E saluto il mio fraterno amico, nonché fratello di redazione, Sergio Fanti, che scrive: ha delle gran fette. Oh, mi ha scaldato il cuore in questa fredda mattinata nella quale il sole si muove con grande circospezione, timido, pallido ed esitante. Grazie, ma che bella poesia, Sergio, grazie. Almeno è arrivato, è un freddo birichino, cioè... Pensa che Sergio poi tra l'altro per me sfiora l'1,90, direi che non è, è diversamente basso, ecco, se vogliamo, e ha infatti è ben piantato per quanto riguarda questo aspetto e ha una grande passione, il calcio, e in questo caso il calcio degli anni 70, soprattutto dei giganti, non è che fossero presenti in questa... Sarebbe interessante sapere il ruolo dei piedi nel calcio, infatti un piede grande aiuta? Io ricordo Palanca, che era questo giocatore realizzatore, un goleador del Catanzaro, che aveva il 36, famoso perché piedino. Portava gol da calcio d'angolo, un piede veramente molto preciso. A me hanno sempre detto che la precisione è in un piede piccolo per quanto riguarda il calcio, ma ovviamente immagino che per i contrasti una fetta... una bella fetta una possa aiutare. Fetta, non lo so, immagino, chiedo aiuto a Sergio. Dice no, nel calcio è meglio il fettino. perché ho voluto portare Lee Morgan anche nella nostra playlist? Non c'entra niente nel basket, nel calcio, c'è una caratteristica fisica. Aveva le orecchie a sventola. diciamo che poi. Allora, parliamoci chiaro: il naso importante, le orecchie a sventola, le mani grandi. Alla fine noi ci innamoriamo delle persone per queste caratteristiche. Io non riesco a definirli difetti. Queste sono caratteristiche che fanno sentire ancora più nostra, che se non è un bel termine, però fanno sentire ancora più vicina, più un'affezione personale, la persona che nel cuor ci sta, insomma. Barbara Streisand col suo naso, insomma, non era esattamente uno strabismo, che addirittura viene definito strabismo di Venere. Quindi anche quelli che vengono definiti in maniera, secondo me, impropria, i difetti, secondo me sono caratteristiche. Esatto. E perché no? Un valore aggiunto anche. Certo. Questa è la morale della puntata, se vogliamo, hai capito? Abbiamo fatto anche questa. Abbiamo fatto anche la morale. Sai, beh, il mood to groove poi è unire a determinati aspetti tra la filosofia e la quotidianità che possano trovare un riferimento nella pallacanestro, soprattutto nella pallacanestro protagonista sui 103.1 ogni martedì. Quindi pensate alle vostre caratteristiche e non criticatevi. Pensate sempre che potrebbero essere dei valori aggiunti. Valorizzatevi e valorizzateli. Esatto. Parola di uno che di difetti ne ha tanti, quindi anche ma chi non ne ha? Anche per giustificarmi, insomma. È terminato il Mood Group di oggi, sperando di avervi tenuta buona compagnia, anche una calda compagnia se vogliamo, visto le temperature odierne. Del resto sono i giorni della merla. Noi torniamo la prossima, martedì prossimo. Ringrazio Paolo Onofri da remoto con il contrappunto che va a corredare la conduzione di Pietro Rossi. Grazie Pietro. Grazie Willy, grazie a tutti. L'appuntamento è a domani con il Voltiamo Pagina insieme a Silvia Albertazzi. Ho trovato un libro, l'ho acquistato ieri. veramente, guarda, questo mi ha aperto il cuore. L'ho letto praticamente stanotte, si può dire. Libro bellissimo che metterò in palio per voi al Voltiamo Pagina. A breve di Pen Enciclopedico, a seguire Liberi Dentro, dopodiché avremo la rassegna stampa. E mi raccomando, è martedì, quindi cosa c'è? Il vinile quotidiano di Andrea Gozza, da non perdere. Il vinile quotidiano dalle 10.30 alle 12.30. Grazie Pietro, ti abbraccio, guarda, anche a io. Distanza. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao.